647 pasticcini di pasta beignet coperti di cioccolata. Servitevi della ricetta numero 631, ma teneteli più piccoli, onde ottenerne da 20 a 23. Riempiteli con crema o panna montata o conserva di frutte. Frullate nella cioccolatiera sul fuoco questo composto: cioccolata grammi 120, zucchero in polvere grammi 50, acqua decilitri 1. Quando sarà ben frullato, come la cioccolata che si serve in tazza, versatelo così a bollore sui pasticcini, a suolo per suolo, che disporrete in bella mostra sopra un vassoio ove facciano la colma. È un piatto che è bene farlo il giorno stesso che deve essere servito, perché altrimenti indurisce. Questa dose potrà bastare per 6 persone.